Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buonasera da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Un po' di larità qui in studio stamattina, per fortuna che la settimana parte bene, nonostante invece il tempo uggioso stia facendo partire la settimana dal punto di vista meteorologico, almeno su Milano, in maniera molto diversa. In ogni caso, non è questo quello di cui parliamo stamattina, ma parliamo di un tema molto interessante. Vi ricordate quando in passato, lo abbiamo fatto tante volte, abbiamo parlato e per tanti mesi, della novità che era intervenuta nel settore assicurativo, cioè dell'introduzione dell'indennizzo diretto, quella procedura grazie alla quale, detta in termini molto semplici, se ci capitava di essere tamponati ci poteva risarcire subito la nostra compagnia di assicurazione piuttosto che aspettare il risarcimento della compagnia della controparte, cioè di colui che ci aveva tamponato. Qual è la novità di cui ci occupiamo stamattina, a cui dedica anche l'apertura l'inserto Affari Privati del Sole 24 Ore questa mattina? È arrivata una sentenza della Corte Costituzionale che ha giudicato legittimo un nuovo modello di indennizzo diretto nell'RC auto, fermo restando che è sempre l'assicurazione del danneggiato a risarcire il cliente, ricevendo successivamente il forfè della compagnia della controparte. Allo stesso tempo viene accordato all'automobilista il diritto, se insoddisfatto del trattamento, di rivolgersi alla compagnia del danneggiante. E allora, cosa vuol dire tutto questo? Stamattina dovremmo tradurlo in termini pratici per i nostri ascoltatori. È già possibile avvalersi di questa opportunità? In quali casi può essere consigliabile? Lo è sempre, insomma, che benefici avranno, se li avranno, i consumatori, gli utenti, gli automobilisti? Stamattina ne parliamo con le firme che ne hanno scritto oggi sulle Sole 24 Ore, sono anche due amici di Salva Danaio. Buongiorno a Raffaele Pellino, presidente dell'UCI, Ufficio Centrale Italiano, esperto del settore assicurativo per il quotidiano, buongiorno. Buongiorno a voi e ai nostri ascoltatori. E buongiorno e bentrovato anche al collega del Sole 24 Ore, Maurizio Caprino, un altro esperto di tutte le tematiche attinenti alle quattro ruote. Maurizio, bentornato anche a te. Grazie, buongiorno. Il numero per i vostri interventi 800240024, il numero per i vostri messaggi 349-238-6666. Avete più opportunità per farci le vostre domande, a cui naturalmente cercheremo di rispondere al meglio. La borsa intanto stamattina è negativa ad un anno dal crack di Lehman Brothers, a cui abbiamo dedicato già tanto spazio nel corso dei nostri programmi di approfondimento, nel corso anche dei nostri radiogiornali. Ad un anno appunto da questo crack, le borse, come sapete bene, da un anno stanno riprendendo quota, addirittura stanno viaggiando da qualche settimana a questa parte sui massimi del 2009, ma oggi partono male, la settimana parte maluccio. Non c'è una precisa ragione, secondo quello che dicono gli operatori di borsa, ma solamente prese di profitto dopo i rialzi recenti, calo di circa un punto a Parigi, Francoforte, Londra un po' meno, meno 0,7%, Milano invece perde un po' di più, meno 1,11%. I titoli che stanno sostenendo in ogni caso il listino sono Finmeccanica, più 1,12%, il gruppo attraverso la controllata americana DRS è stata selezionata per un contratto da quasi 2 miliardi di dollari per una fornitura molto importante all'esercito e alla marina americani. Prysmian più 0,7%, abbiamo Terna più 0,29%, Geox più 0,17%, questo è il quartetto dei titoli positivi di Milano e qua si finisce presto appunto la lista dei titoli con il segno più. Chi invece perde di più? Mondadori, meno 2,76, CIR meno 2,29, UbiBanca meno 2,24, meno 2 anche per Buzzi, per STM, per Fondiaria, per Autogrill, il Banco Popolare meno 1,7 con Mediobanca, calo anche di circa un punto e mezzo abbondante per Monte dei Paschi, Mediaset, Italcementi, Intesa San Paolo in pregiro, e quindi di nuovo banche sotto tiro da parte degli investitori. Euro su dollaro 1,4547, petrolio in vertiginosa discesa nelle ultime ore a $68 stamattina sui mercati asiatici, ma noi lasciamo tutto ciò che riguarda la borsa per andare al tema di stamattina e riepilogare un po' quali sono le novità relative all'indennizzo diretto nell'RC auto. L'indennizzo mezzo diretto si trova davanti a un bivio, o meglio, in una strada a doppio senso, per il momento. Lo scorso giugno, infatti, la Corte Costituzionale ha depositato una sentenza che di fatto fa cadere l'obbligo della procedura del risarcimento diretto, ovvero il meccanismo introdotto nel febbraio 2007, attraverso il quale la denuncia di un incidente e la richiesta di risarcimento vengono indirizzate alla propria compagnia assicurativa e non più a quella di chi ha causato il sinistro. Il provvedimento della Corte Costituzionale è scattato in seguito a iniziative di avvocati e periti che, non vedendo di buon occhio la procedura del risarcimento diretto, hanno iniziato a ritenere la pratica facoltativa anziché obbligatoria. Cosa significa tutto questo per gli automobilisti? Come bisogna comportarsi dunque in caso di incidente stradale? La situazione è ancora incerta e delicata, anche se per il momento le compagnie assicurative hanno scelto di proseguire la procedura diretta. Chi volesse quindi procedere secondo le vecchie regole deve fare causa alla compagnia del responsabile del sinistro. 800 24 00 24, vi potete prenotare già per i vostri interventi oppure ci potete scrivere al 349 238 6666. Maurizio, il sistema del risarcimento diretto è sempre stato un po' sotto tiro da quando è stato introdotto con l'obiettivo di smaltire almeno i risarcimenti di incidenti e sinistri tutto sommato semplici. Ha comunque fatto, me lo ricordo bene all'epoca, infuriare diverse categorie professionali, periti e legali del settore, che si sono un po' sentiti estromessi da un business non indifferente. La prima cosa che ti chiedo, pure anche in relazione a questo aspetto che ho sollevato, è come mai è intervenuta questa pronuncia della Consulta lo scorso giugno? Ma è intervenuta perché queste categorie che tu hai menzionato si sono passate la voce sostanzialmente e hanno fatto in modo che intervenisse la Consulta. Come si fa in questi casi a far intervenire la Consulta? Molto semplice, si tratta di istruire le cosiddette cause pilota, insomma, quindi si fa una causa normale davanti al giudice di pace convince il giudice di pace a sollevare una questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta. Questo è esattamente ciò che è accaduto in questo caso e la risposta della Consulta non si è fatta attendere. Tra l'altro è una risposta in cui la stessa Consulta mette per iscritto la propria consapevolezza dei problemi che vengono creati al sistema, però dice questi problemi verranno risolti caso per caso dai giudici. Insomma, una risposta che ha lasciato interdetti molti addetti ai lavori. Ah sì, perché? Ci spieghi? Sì, perché la Consulta ha aperto un problema senza indicarne una soluzione, o meglio indicandone una sola soluzione, che è quella fate causa e ci pensa il giudice di volta in volta, il che porta a una tendenziale esplosione del contenzioso, che è proprio quello, è proprio una manna per quelle categorie che all'epoca si erano lamentate del risarcimento diretto, in buona sostanza. Come tu scrivi questa mattina sul Sole, ha dato alla questione un'interpretazione costituzionalmente orientata per non togliere al danneggiato alcuna opzione. Questa sentenza, Maurizio, è arrivata a giugno. Il danneggiato in un incidente stradale, in un sinistro, che ribadiamo è comunque di tipologia semplice, poi magari rifacciamo un po' la rosa di tutti quei sinistri che possono ricadere sotto la procedura dell'indennizzo diretto. Il danneggiato che non è soddisfatto del risarcimento diretto può già avvalersi della nuova procedura? Le compagnie non sono pronte, sono in difficoltà ad applicarla? Diciamo che le compagnie si sono date un codice di comportamento, nel senso che stanno dirottando gli eventuali danneggiati che si avvalessero di questa procedura, li stanno dirottando comunque sul risarcimento diretto. È chiaro che se il danneggiato insiste, allora deve far causa per farsi riconoscere questa possibilità. Ovviamente il consiglio è quello di andare avanti col risarcimento diretto, cioè non far causa subito. Poi ovviamente se la propria compagnia non soddisfa, da un risarcimento non soddisfacente o non pronto, allora si fa causa, ma è inutile fare causa subito, insomma, come magari vorrebbero certi professionisti. Allora, Raffaele Pellino, visto che noi stiamo dando anche abbastanza per scontato questa mattina che tutti si ricordino esattamente in che cosa consiste la procedura dell'indennizzo diretto, noi siccome invece non diamo niente per scontato e qualcuno non avrà mai neanche sentito parlare di questa importante novità che qualche anno fa è stata definita una vera e propria rivoluzione per il sistema dell'RC Auto, ci aiuta a ricordare che cos'è, a che cosa serve e soprattutto se ha raggiunto quell'obiettivo finale che era anche quello un po' di calmierare le tariffe RC Auto, di abbassarle un pochino? Anche quella un'altra grande questione sempre oggetto dell'attenzione delle associazioni dei consumatori. Sì, all'ultima parte della domanda risponderò per ultimo. Benissimo. Dunque, la procedura di indennizzo diretto intanto è prevista al codice delle assicurazioni private, ma non è nata con il codice delle assicurazioni private. Io ricordo a me stesso che anni fa esisteva un consorzio per l'indennizzo diretto costituito volontariamente fra le compagnie per consentire ai danneggiati di ottenere il risarcimento in maniera soddisfacente dal proprio assicuratore. Si cercò all'epoca, l'obiettivo era quello di valorizzare la scelta dell'assicurato nel momento in cui avesse bisogno di escutere la garanzia che aveva acquistato. L'indennizzo diretto funzionò in maniera volontaria, in maniera direi molto soddisfacente. Devo ricordare ancora che io sono stato di questo consorzio presidente del comitato esecutivo per 6 anni, quindi ho contribuito allo sviluppo e lo ricordo perfettamente. Benissimo. Arrivava, quindi insomma, un protocollo che già esisteva e che è stato istituzionalizzato. Un protocollo volontario che aveva fra le sue pregiudiziali quello di presentare una richiesta di risarcimento con una costruzione amichevole. Pensi che la costruzione amichevole di incidente si chiamò modulo CID, sì. Tanto identificava la procedura con il modulo, doveva essere a doppia firma, questo creava qualche problema perché non sembrava possibile. Con il codice delle assicurazioni private, con l'articolo 149, questa procedura è stata direi istituzionalizzata, è passata da una procedura facoltativa a una procedura, io dico in questo momento obbligatoria tra virgolette, ma poi lo correggo. Benissimo. Una procedura che riguarda incidenti abbastanza semplici, sì, infatti. Cioè incidenti che si verificano fra due veicoli identificati, assicurati con una compagnia italiana o con una compagnia straniera che aderisce a questa convenzione tra compagnie, dal quale sono derivati danni alle cose e lesioni alle persone, al conducente, lesioni lievi al conducente. Benissimo. Lesioni contenute del 9%. Siamo ritornati a Salvadanaio questa mattina per parlare di RC Auto, ma in particolar modo per parlare di una novità che è intervenuta di recente nel nostro ordinamento, una pronuncia della Corte Costituzionale che in qualche maniera è intervenuta sull'indennizzo diretto, su quella procedura risarcitoria dei sinistri che in qualche maniera voleva smaltire un po' i tempi, secondo quanto ci ha spiegato anche nella prima parte della nostra trasmissione Raffaele Pellino, presidente dell'UCI, esperto del settore assicurativo per il Sole 24 Ore, che ci ha rifatto la cronistoria di questo istituto introdotto nel nostro ordinamento appunto un anno e mezzo fa circa, anzi di più, perché Pellino, se non ricordo male, è stato nel 2007 che l'indennizzo diretto è stato introdotto nel nostro paese. Da febbraio del 2007, sì. Per cui sono 2 anni e mezzo, non 1 anno e mezzo. E allora la consulta che cosa ha detto? In realtà, se il danneggiato nell'ambito di un sinistro lieve naturalmente non si sente adeguatamente risarcito direttamente dalla propria compagnia, può comunque attivare la procedura ordinaria, quindi quella di rivalersi contro la compagnia della controparte. E allora questo naturalmente ha sollevato un po' di dubbi da parte di tutti gli interessati alla questione, anche dell'ANAS, dell'Associazione delle Compagnie di Assicurazione dell'ISVAP, che è l'autorità che invece sulle compagnie controlla, ma anche di qualche ascoltatore. Antonello da Cagliari, benvenuto tra di noi. Eccolo, ti pareva che era la prima domanda, che quella mi piaceva di più, Antonello è caduto. Allora noi andiamo da Massimo da Padova. Sì, pronto. Massimo, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a lei. Niente, io volevo fare una domanda precisa, nel senso che ancora una volta una sentenza non chiarisce in maniera inequivocabile se si può o non si può agire anche stragiudizialmente nei confronti della compagnia assicurativa del danneggiante. Ma ancora una volta ti dicono: vuoi il risarcimento da chi ti ha cagionato il danno? Devi fare causa. Secondo me viene violato proprio un diritto principale delle persone, che è quello di rivalersi nel responsabile civile. Quando adesso invece c'è una situazione di risarcimento diretto che assolutamente non tutela il danneggiato, per il semplice fatto che la propria compagnia di assicurazione, che dovrebbe liquidare velocemente in maniera adeguata, non può fare gli interessi del danneggiato, perché cerca sempre di fare i propri interessi, che è quelli di pagare di meno. Lei lavora nel settore, Massimo? Io lavoro nel settore, ma ancora di più questo si giustifica perché adesso le compagnie non fanno più la rivalsa nei confronti della consorella, sì, facendosi liquidare quello che è stato liquidato, ma cosa fanno? Forfettizzano, e quindi è da lì che nasce l'ovvio. Io Deborah. Sì, no, sì. È ovvio che la compagnia non ha nessun interesse di liquidare velocemente e adeguatamente il proprio cliente. Allora, Massimo, e ancora una cosa le dico, sì. Se prima il cliente era un buon cliente per le compagnie di assicurazioni, perché non faceva mai incidenti, perché era diligente, perché era oculato e quindi preparato. Oggi il bravo cliente non lo è più, perché nel momento in cui viene danneggiato ovviamente vuole essere risarcito in maniera adeguata, ma deve far valere i propri diritti nelle sedi giudiziali, e non è giusto. Beh, però noi non vorrei partire dal presupposto che in ogni caso un risarcimento, anche se fatto dalla compagnia nostra, deve essere per forza inadeguato. Allora Pellino, mi deve aiutare anche ad interpretare un attimo la questione sollevata da Massimo, perché non essendo un tecnico, notoriamente cerchiamo di chiarire. No, perché anche Maurizio Caprino l'ha detto all'inizio, che in ogni caso la sentenza, la pronuncia della Consulta lascia aperti ancora molti interrogativi e molti quesiti. Allora, io sono in totale dissenso con il nostro ascoltatore, in assoluto totale dissenso. Perché non è assolutamente vero che le compagnie rimborsano forfè, eccetera. Questo è previsto dalla legge. I rimborsi di quanto erogato, che era la prassi seguita con il CID volontario, sono stati accusati dall'antitrust di rappresentare uno scambio di informazioni e quindi di violare la corretta corrispondenza. Quindi questo per quanto riguarda i forfè, che non sono un'invenzione delle compagnie, ma sono quanto previsto dalla normativa sull'indennizzo diretto. Nel merito, io non credo che un assicuratore che si rispetti abbia interesse a scontentare il proprio cliente. Io devo ricordare che l'indennizzo diretto facoltativo, ma anche questo, è stato uno strumento che è servito a valorizzare il rapporto tra cliente e assicuratore, a migliorare questo rapporto, in quanto l'assicuratore non aveva a che fare con una qualunque controparte che potenzialmente poteva diventare cliente, ma aveva a che fare con un soggetto che aveva già scelto quella compagnia, quindi bisognava premiare questa scelta. Quindi io questa prevenzione per il fatto che le compagnie, risarcendo il proprio cliente, tendano a risparmiare, non la condivido nella maniera più assoluta, anche perché io vivo nel settore, conosco il settore, ho vissuto 50 anni nel settore e quindi so quanto sia importante il cliente per la compagnia. No, che l'indennizzo diretto abbia escluso dal negoziato sui risarcimenti un po' bagatellari e non solamente certe intermediazioni. Eccolo, è lì che volevo arrivare, perché il tema è che in sostanza in questo frangente le compagnie, e lo scrivete proprio anche voi stamattina sul Sole 24 Ore, hanno costituito reti di carrozzerie di fiducia. Maurizio Caprino, qui chiedo il tuo aiuto, che è stato un po' anche il perno intorno al quale è ruotata l'attività del sistema del risarcimento diretto, ma ha creato anche qualche dubbio, no? Sul suo funzionamento, sulla sua efficacia, Maurizio. Beh, sicuramente, perché i carrozzieri sono sentiti assolutamente strangolati, loro sono entrati diciamo a gamba tesa in un settore dove oggettivamente c'era da risparmiare, per carità, però sono entrati appunto, come dicevo prima, a gamba tesa, non distinguendo il carrozziere che lavora bene dal carrozziere che lavora male o addirittura dal disonesto, e questo è particolarmente grave perché noi utenti non abbiamo poi alcun modo di riscontrare a posteriori come ha lavorato il carrozziere qui ci siamo rivolti, perché noi non siamo dei tecnici, a noi viene riconsegnata un'automobile, certo, bella lucida, e tanto ci basta, insomma. Se poi il carrozziere ha combinato qualche guaio sotto, a volte ci se ne accorge addirittura al prossimo incidente, quando l'auto non regge l'urto come dovrebbe, insomma. Ecco, quindi sono cose gravi. Le compagnie dovrebbero, prima o contemporaneamente all'entrata a gamba tesa, dovrebbero anche aumentare i controlli sulle carrozzerie. Questi controlli però ovviamente costano, e questo crea loro problemi di bilancio, insomma. Allora, però va fatto. Io tra l'altro volevo anche cercare di capire un po' meglio la questione del forfè, che probabilmente non abbiamo reso molto chiare ai nostri ascoltatori, però c'è prima Marcello da Roma all'800240024 che è appena stato tamponato. Marcello. Esatto, in realtà la cosa è molto semplice, ero fermo all'incrocio e da dietro mi hanno tamponato. Vabbè, appunto. La persona è stata molto gentile, per cui ha firmato il CID e addirittura ha scritto nello spazio numero 14, dove sono le note generiche, ammetto la colpa. Io adesso non chiamavo soltanto perché mi state spaventando. No, faccio il CID, se faccio il CID e la persona scrive ammetto la colpa, io penso che non perderò nessuna classe, verrò risarcito interamente, spero. No, Marcello, beh, mi sembra che per una pratica così semplice come quella che lei ha appena affrontato, con tra l'altro una controparte così onesta, Maurizio, qui non dovremmo aprire nessun versante di polemica, non dovremmo aprire nessuna della nuova nessuna parentesi rispetto alla nuova opzione di cui stiamo discutendo stamattina. No, addirittura ci sono stati all'inizio il risarcimento diretto, sono stati pubblicizzati casi risolti addirittura in poche ore, quindi non dovrebbe esserci problema. Certo è che però se la compagnia, se la propria compagnia fa cilecca, insomma, lascia in qualche modo insoddisfatti, può accadere anche in un caso apparentemente così semplice, è chiaro che poi che ci sono tutte le tutele del caso, però non facciamoci la testa prima di essercela rotta. Cioè il senso di tutto il nostro discorso è proprio questo: noi non diciamo che il risarcimento diretto sia l'optimum per come è stato applicato, anzi ci sono state diverse disfunzioni e lo scrivo anche oggi sul giornale, però non creiamone noi di ulteriori, questo nel modo più assoluto. Quindi vediamo come va e solo se non va bene poi speriamo tutta quell'altra serie di rimedi che suggeriscono i professionisti. No, tra l'altro ecco, proprio questo caso di Marcello che dicevamo è molto semplice, lui si è anche spaventato, no, perché riteneva addirittura di aver capito che fosse cambiato qualcosa, ma qualora la proposta risarcitoria della nostra compagnia, se avessimo attivato tutta la procedura appunto dell'indennizzo diretto regolare secondo le modalità che abbiamo conosciuto fino a questo momento, non fosse una proposta che riteniamo soddisfacente, quindi in che momento dobbiamo decidere, Maurizio, di attivare la cosiddetta procedura ordinaria, che è questa facoltà riaperta dalla pronuncia della Corte Costituzionale? Allora, su questo dobbiamo fare attenzione, ecco. Perché non possiamo attivare entrambe le procedure, non possiamo scegliere se ci va bene è un conto, se non ci va bene è un altro, no. Noi scegliamo, quindi si deve stabilire sin dall'inizio? Esatto, noi scegliamo una procedura e se non ci va bene il risultato di quella procedura lo possiamo valutare solo nel momento in cui otteniamo l'offerta di risarcimento da parte della compagnia a cui ci siamo rivolti, allora decidiamo che non ci va bene e facciamo causa. Ecco, questo è il punto, ma dobbiamo appunto attendere l'offerta oppure dobbiamo attendere il decorso dei termini per l'offerta. Se questa non ci viene fatta possiamo assolutamente agire, tra l'altro segnalando anche la cosa all'ISVAP, perché può fare una multa. Cosa assolutamente poi importante è non vale il discorso pochi maledetti a subito, cioè magari noi non siamo soddisfatti ma prendiamo i soldi, accettiamo lo stesso l'offerta perché abbiamo bisogno dei soldi. No, noi quei soldi che ci vengono offerti li avremo comunque, perché valgono come acconto rispetto al risarcimento congruo che fisserà poi il giudice. Quindi non c'è neanche un condizionamento di questo tipo sul danneggiato. Quindi, tanto per essere ancora più concreti, Maurizio, poi deve andare suggerimenti per chi è in viaggio, naturalmente, oltre a quelli che stiamo dando anche in termini assicurativi. Nel caso dell'ascoltatore che ci ha chiamato prima, che ha appena subito un tamponamento, in che momento, qualora non fosse soddisfatto della modalità con cui si sta svolgendo il conflitto con la controparte, non fosse soddisfatto, in che modo può ritornare alla procedura ordinaria rinunciando all'indennizzo diretto? No, dovrebbe sceglierla subito. Immediatamente. Scegliere subito. Ma lì diciamo che si capisce subito se c'è conflittualità con la controparte. Se la controparte si è assunta la colpa, io non vedrei tanti problemi, perché a volte in incidenti del genere il problema potrebbe essere che la controparte fa spuntare un testimone falso che mette in discussione la colpa, la mette a posteriori. Insomma, però di fronte a un'ammissione così chiara sarebbe temerario anche la parte della controparte cambiare versione, insomma. Comincio però con Eleonora da Firenze, che ancora ci chiede di tradurre in termini pratici le opportunità di questa nuova opzione. Eleonora, buongiorno. Eleonora? Eleonora ci ha chiuso il telefono, non ci sente? Eleonora, niente, si è presa un secondo di pausa giusto nel momento in cui doveva andare in onda. Sentiamo allora Paolo da Roma. Paolo? Allora, qui o è Fabio Cantadori che sta facendo confusione. Pronto? Paolo, dov'è finito? Avvocato? Ah, sì, no, io avevo detto a mio figlio, non di che sei avvocato, perché sennò... Senta, purtroppo... Io ci combatto tutti i giorni con le compagnie assicurative, tutti i giorni. Sì. E che facciano gli interessi dei propri clienti non è neppure quello vero, per un semplice motivo, perché spesso e volentieri il settore marketing, cioè quelli che fanno gli assicuratori, le agenzie eccetera, stanno completamente scollegati dai CLD. Paolo, cosa c'entra con il tema di stamattina? Non abbiamo aperto un dibattito su come le compagnie operano verso i clienti. Noi questa mattina ci interessa capire qualcosa di più rispetto a questa novità aperta dalla pronuncia della Corte Costituzionale sull'indennizzo diretto. Vuole arrivare anche a quello? No, scusi, non ho sentito, sto al cellulare. Ah, ecco, e allora guardi, io adesso mi spiace chiuderla, ma questa mattina ci interessa capire un altro punto della questione. Non vogliamo aprire il dibattito sulle compagnie di assicurazione che le assicura Salvadanaio. Sono state ospitate molto spesso e anche a loro è stato detto quando si comportano male, quando si comportano bene. Comunque, Pellino, quali sono i casi in cui non è assolutamente perseguibile la strada dell'indennizzo diretto? Sinistri con più di due vetture, più di due veicoli, sinistri con veicolo con targa estera, fondamentalmente questi, lesioni superiori al 9% e basta. Quindi restano fuori i sinistri più complessi, certamente, quelli che si vedono con più veicoli, sinistri con targa esteri o sinistri con targa nazionale assicurati con compagnie straniere che operano nel nostro paese ma che non hanno aderito alla convenzione per la gestione dell'indennizzo diretto. Quell'obiettivo di abbassare un po' le tariffe dell'RC auto, che era uno degli obiettivi primari dell'introduzione di questa riforma, è stato raggiunto, visto che ci eravamo lasciati come ultimo, questa considerazione? Dunque, è stato raggiunto. Le tariffe sono una componente di molti fattori. Il costo del singolo sinistro, in particolare di questa categoria di sinistri, incide per una piccola parte. Io credo che sia stato raggiunto quantomeno per evitare lievitazioni maggiori. Credo che sia stato raggiunto quale componente di moderazione, anche di qualche modesto aumento che c'è stato. Benissimo, insomma, quindi Pellino ritiene, certo, poi non ho dati statistici aggiornati per poterlo, perché le compagnie di assicurazione invece non si accontentano mai e dicono che sono andate le RC auto in tutt'altra direzione negli ultimi anni. Allora, io sono stato tamponato, la mia compagnia mi ha penalizzato la classe di merito, ci racconta Daniele da Bergamo, ma non abbiamo capito se l'indennizzo diretto sia stato attivato o meno, e intanto abbiamo recuperato Eleonora da Firenze. Eleonora. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Bene, la mia domanda era appunto, come diceva lei, di stampo strettamente pratico dal punto di vista processuale. Sì. Volevo sapere, e premetto che io non ho letto la sentenza della Consulta e quindi mi affido alla vostra al vostro riassunto che avete offerto all'inizio della trasmissione, e mi sembra di aver capito che in ipotesi di indennizzo non congruo da parte della propria assicurazione quale veicolo danneggiato, è possibile rivolgersi direttamente nei confronti dell'assicurazione del veicolo danneggiante. Io mi chiedo, questo quindi è un criterio che può valere anche a livello processuale, quindi direttamente citare in giudizio l'assicurazione del veicolo danneggiante senza passare dalla citazione in giudizio invece del proprietario del veicolo danneggiante? Se così fosse, sarebbe a mio avviso un'eccezione, e questa sarebbe una vera novità rispetto al principio della legittimazione passiva, secondo cui ci si deve rivolgere al proprietario dell'auto danneggiante, che poi eventualmente chiamerà in causa. Ma cosa siete? Stamattina, incredibili, una schiera di giuristi abbiamo recuperato nella nostra trasmissione. Leonore, io la ringrazio per la sua domanda, che non mi permetto minimamente di commentare. Io spero che Maurizio Caprino abbia compreso tutte le eccezioni sollevate da Leonora, ma qui ritorniamo anche ad un punto che invece in maniera molto più banale avevo sollevato io, proprio sui tempi in cui è possibile riattivare la procedura ordinaria se non siamo soddisfatti del risarcimento che ci propone la compagnia di assicurazione. Per questo mi soffermavo tanto prima, Maurizio, sul momento in cui io devo decidere quale procedura attivare, perché devo conoscere comunque qual è l'entità del risarcimento che la mia compagnia mi propone. Maurizio Caprino. Abbiamo perso anche Maurizio Caprino? Allora, sento Pellino, se riesce a darmi una mano su questo certamente punto. Sì. Allora, non mi avete perso ancora. Non so cosa stia succedendo. Maurizio Caprino l'ha chiarito prima, non possiamo scegliere in corsa quale debitore escutere. Cioè io posso scegliere se rivolgermi al mio assicuratore azionando l'articolo 149 del codice delle assicurazioni, cioè rivolgendomi al mio assicuratore in indennizzo diretto, oppure posso scegliere di rivolgermi all'assicuratore del responsabile inusabile. La Consulta su questo è stata molto chiara, sì. Ha detto questa norma che consente in diritto sostanziale e processuale di convenire il responsabile, il suo assicuratore, non è stata annullata. Quindi questa possibilità io la devo però esercitare prima di cominciare la mia azione esercitoria, quindi non posso sceglierla in corso. La nostra ascoltatrice da Firenze poneva qualche problema di tipo processuale. Allora, se io scelgo la strada dell'indennizzo diretto, mi rivolgo al mio assicuratore, se non sono soddisfatto di quanto mi viene corrisposto, cito in giudizio il mio assicuratore, l'assicuratore responsabile può intervenire in questo giudizio estromettendo l'assicuratore diretto che io ho citato, riconoscendo al colpo del proprio assicurato. Questo è l'esercizio dell'azione diretta. Se io scelgo di azionare, di chiedere il mio risarcimento all'assicuratore del responsabile e al responsabile, cito questo assicuratore, cito il responsabile per il principio del disconsorzio necessario e sono a posto, ho esercitato la vecchia azione risarcitoria. Speriamo di essere a posto, perché per me non è niente facile tutto quello che abbiamo detto. In ogni caso, poi con la prassi probabilmente anche tutta la questione andrà a chiarirsi progressivamente. Allora, noi stiamo quasi chiudendo, ci manca un minuto, non riesco a far intervenire Leonardo dalla provincia di Roma. Leonardo, ci scriva, le risponderemo per iscritto e lo faremo molto volentieri. L'indirizzo salvadanaio@radio24.it con Maurizio Caprino, che abbiamo recuperato. Maurizio, abbiamo un minuto, te ne assegno 30 per dare un po' le ultime raccomandazioni finali ai nostri ascoltatori che stamattina magari hanno avuto attirata l'attenzione su questa questione. Che cosa c'è da sapere? Una sintesi finale sulla novità di cui abbiamo parlato questa mattina. Allora, diciamo che avete una possibilità in più oggi, che è quella di attivare la vecchia procedura, però al momento è una possibilità più teorica che pratica, perché le compagnie tendono a dirottarvi sulla vecchia procedura. Quindi se volete farvi valere per avere sulla nuova procedura, quindi sul risarcimento diretto, chiedo scusa, quindi se volete la vecchia procedura, alla fine dovrete far causa, sostenere l'applicazione direttamente della vecchia procedura. E il giudice non potrà darvi torto, perché fondamentalmente la Consulta gli ha dato un grosso paracadute in questo. Però ecco, il mio personale consiglio è: il risarcimento diretto è assolutamente perfettibile, è andato male nei primi anni, eccetera, eccetera. Però andare a creare noi, di nostra spontanea volontà, ulteriori problemi al sistema, certo, significa far male anche a noi stessi. Un contenzioso, giusto perché adesso questa porta si è riaperta, cioè valutiamo anche se sia utile o meno. Grazie a Maurizio Caprino, Raffaele Pellino per essere stati con noi. Se ne volete sapere qualcosa di più e se qualcosa vi siete persi stamattina, potete sicuramente recuperare il Sole 24 Ore di oggi, la pagina di Affari Privati. Noi di Salvadanaio torniamo domani, vi auguro una buona giornata. Salvadanaio.